Brasil. La nostalgia do Brasil. Brasil está ali. L'Italia qui. Tutti convocati. Di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Beh, mica male, eh? I'm so high, I can hear ever. I'm so high, I can hear ever. Ed ecco a sostegno Donadoni, prova il destro. Messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, gol di grosso. Il primo palo, il pallone per Immobile di testa, eccolo il gol numero 3000 in Serie A per il Torino, lo segna Ciro Immobile. Pallone adesso per Immobile, 2-0, Ciro Immobile. Io avevo fatto un paragone con Schillaci, perché Schillaci nel Mondiale 90, considerato da tutti la quinta punta, poi è diventato protagonista assoluto dei mondiali, capocannoniere. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che se anche uno può essere considerato una quinta punta, ma se ha l'opportunità deve essere pronto, non è che puoi pensare di oddio adesso, no, devi prepararti mentalmente, devi prepararti partita dopo partita, opportunità dopo opportunità. Questo... Siete tutti prigionieri, cari miei. 800 24 00 24, smentitevi se potete. Siete prigionieri della scaramanzia, dei corsi e ricorsi, del bisogno di sfigocupismo polemico, di una marcia di avvicinamento vissuta come una via crucis senza sorriso. L'ha detto anche Prandelli ieri, Non c'è niente di nuovo. All'inizio di tutte le manifestazioni in Italia c'è sempre pessimismo. Ditemi voi quando c'è stato un entusiasmo una volta, ricordatemelo voi. Siamo così. Forse tutti dicono che consciamente abbiamo bisogno di questo stato di sicurezza, questo stato di criticità. Secondo il mio punto di vista no, però andiamo così. E quindi dal mio punto di vista sono sereno perché ho lavorato bene, perché mi ha lavorato bene. Avremo tante difficoltà, ma la certezza che possiamo dare è che lotteremo su ogni pallone. Questa è la certezza che darò. Schiavi del pessimismo, tu no però, Pierluigi Pardo. Buongiorno, come Ciao. Va? Benissimo, e tu? Bene. Non... Senti, ma... non vedo l'ora che cominci. Non ne faccio più. Cioè, conti minuti. Ma dimmi una cosa, diciamolo pubblicamente, domani è Tiki Taka, giusto? Sì, 21:10 Italia 1, 21:10. 21:10 Italia 1. Non ditemi che è troppo presto, dopo un anno in cui avete detto, bello, ma lo fai troppo. No, è perfetto, è perfetto per noi anziani che non riusciamo ad arrivare a quelle ore. A quelle ore pazzesche, finalmente in prima serata dopo cena si guarda Pierluigi Pardo e Tiki Taka. Ma poi torni in Brasile, no? Torno in Brasile giovedì, sì. Riprendi la metropolitana da bravo pendolare, torno in Brasile giovedì. Sì, quindi giovedì sarà in viaggio. No, perché giovedì è un puntatone, La musica brasiliana, meravigliosa. Giovedì ma io ci sono sempre. Tu devi sapere che qualsiasi volo che viene preso deve superare il visto di tutti, cioè non deve essere in orario. Tutti convocati, io parto giovedì sera in grande serenità e venerdì mattina. tutto a posto. E mi viene in mente una canzone dei Queen. Sai quale? Vale. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Esatto. Yeah. Tutti convocati. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden goal. Pardo, Piantanina è un demonio. È andata a pescarla subito. A me è venuta in mente così, mica l'avevamo preparata. Piantanita, voglio dire, quando non si allarga, ecco, quando non si allarga, Piantanita. È un diavolo, vero? Mi è venuto in mente così, cioè non era una roba programmata, a parte che non programmiamo mai niente. 800 24 0024 programmiamo invece un sacco di telefonate. Ma sai una cosa? Sì. Tempo di elezioni. Zola Rivera, Rossi, Graziani, Pruzzo, Beccalossi, Zola Baggio, Zola Del Piero, Baggio Totti, Totti Cassano, te ne vengono degli altri? Per questa campagna elettorale? Sì, pieno clima elettorale, ogni mondiale, ogni europeo, c'è il dualismo. Beh, adesso c'è il partito degli Scugnizzi contro Mario, diciamo. Sì, sì, sì, adesso con, c'è il con Antonio che è un attimo di rincorsa, ma in realtà poi diciamo che secondo me caro. Questo lo sa anche lui, sa che lo penso, a Cassano basta un lampo, basta lui ha questa capacità che hanno in pochi, che gli basta una giocata per cambiare il suo e il nostro mondiale. Sì, deve solo crederci. In questo momento io credo che Balotelli sia, anzi a tu io penso la formazione basta per il match contro l'Inghilterra, una punta sola, si parte con Balotelli e semmai la partita dell'altro giorno è cambiato qualcosa nel primo cambio, fino a domenica era sicuramente Cassano, oggi magari in altre situazioni potrebbe essere immobile, però vedi ieri Prandelli ha detto che lui non vede Balotelli immobile insieme, no? Preso due punte centrali, sì, poi perché non so, magari non dall'inizio, magari come soluzione tattica, ma escludere totalmente questa possibilità mi sembra sbagliato. Non l'ha esclusa del tutto, ha fatto capire che dall'inizio lui i due attaccanti non li vede, e se li vede Balotelli con un altro, con caratteristiche diverse. Può essere Cassano, secondo me, o può essere al limite Insigne, sì. Ma non è certamente immobile. No, mi verrebbe voglia di farti convocare qualche sondaggista lì di Mediaset, perché in questo momento abbiamo Balotelli in flessione, abbiamo Immobile in prepotente ascesa, Insigne tendente verso l'alto, Cassano invece in ribasso, in netto ribasso dopo le ultime cose, perché allora all'inizio Cassano doveva essere giocatore tattico, poi è diventato titolare nell'immaginario insieme a Balotelli, poi è diventato primo cambio, adesso è secondo cambio. Vabbè, aspettiamo, guarda, io penso che si partirà con una punta sola e sarà Balotelli. Sì. Ma Cassano potrebbe essere ancora primo cambio, poi dipende anche da come va la partita. Ci sono gerarchie molto sottili, molto liquide, sai che mi piace dire liquide, sì. Le gerarchie sono molto liquide in questo momento, perché sicuramente le seconde linee sono andate meglio, le prime linee, cioè comunque l'altro giorno per quel poco può contare il match col Fluminense e i due giocatori che sono messi in evidenza sono due panchinari, 5 attaccanti, tu hai avuto gli squilli da parte di due panchinari, quindi è normale che come dice Totti, come dicono il 90% dei calciatori, è normale che si sia ridotta la distanza fra Balotelli, Cassano e gli altri, però secondo me Balotelli non rischia di giocare, Cassano potrebbe rischiare di non essere il primo cambio, ma ripeto, Cassano è un giocatore che ha, ma sì, ma poi dipende dall'esigenza della partita, Pier, ci sono partite, avversari, ad alcuni può far più male Immobile, che ha determinate caratteristiche, ad altri può far più male Cassano, e a me questa idea di, guarda, sembra quasi una squadra di pallacanestro, no, la nazionale di adesso. Prandelli, d'altra parte, lo ha detto, ma no, quelle di Prandelli di ieri, sui 23 titolari, non sono per una volta tanto parole di circostanza. Mi sembra la fotografia di questo gruppo qui. tutto è possibile, ma tendenzialmente due punti centrali con dei giocatori di qualità in mezzo campo diventa un po' scelta forzata, però tutto è possibile. Qui non si parla di alternativa, qui si parla di 23 giocatori che si devono considerare 23 titolari. In una squadra, giocatori che hanno entusiasmo, voglia di fare, è chiaro che c'è questa sana competizione, è una sana competizione quella che cercavamo, ma nessuno, come dicevo prima, si deve, tra virgolette, preoccupare se non quello di accettare questa sana competizione. Così, no? Sei d'accordo, no? Sul è fatto così, che sembra quasi una squadra di pallacanestro? Sì, e lo è soprattutto davanti. Certo. Ma questa certo. è una tendenza di tutte le squadre, non solo della nazionale. Se voi ci fate caso, la quantità, mentre la coppia di difensori non è che tu abbia il cambio d'attimo, il pacchetto dietro, davanti invece, ma fa parte della normalità del calcio, puoi aver bisogno negli ultimi 20 minuti di un'energia diversa, di una freschezza diversa, di caratteristiche diverse, e quindi quasi sempre i cambi sono cambi offensivi. Quindi secondo me, e poi appunto questa che è una tendenza complessiva del calcio di oggi, viene ulteriormente enfatizzata, ulteriormente rafforzata dal fatto che le seconde linee stanno facendo molto bene. E quindi questo, come dicevo prima, ha reso la distanza fra i teorici titolari e le teoriche riserve ancora più stretta e più sottile. Però insomma, io sono d'accordo con te, sono d'accordo con Prandelli, che penso che non sia una circostanza. No, addirittura pensa nel ruolo nel quale le gerarchie sono più chiare, che è quello del portiere. Guai, dietro a Buffon in questo momento, Sirigu che non sta benissimo, Perin che ha fatto una papera, Mirante che è stato richiamato e è salito all'ultimo con la carta d'imbarco di corsa, e ancora, per dirti, dietro a Buffon ancora non sappiamo c'è molta incertezza, anche se Buffon, speriamo di non avere mai problema, ovviamente, però voglio dirti, anche lì tu non hai nessuno che sa che andrà in Brasile solo a fare presenza. Cioè lì Mirante, Perin e Sirigu sognano in cuor loro, ovviamente. Sognano in cuor loro di andare in porta. Di essere decisivi, quindi sì. A tutti i livelli tu hai questo. No, ma poi ieri Prandelli gli aveva detto allo spogliatoio, ieri non c'è stato allenamento, gli ha strigliati un po', gli ha tenuto il rapporto, però gli aveva detto, e a chi pensa di essere venuto qui in vacanza, ricordo che bastano 5 minuti per fare la storia. E ha ragione, è vero. In un mondiale a maggior ragione, e in questo mondiale a maggior ragione, che credo che questo disegno sia anche figlio di un mondiale particolare, condizioni climatiche eccetera eccetera eccetera, un sacco di cose, però credo che in questo Prandelli si stia vedendo giusto, cioè in una, come dici tu caro Pardo, in una composizione liquida della squadra, in cui tutto può cambiare tra un tempo e l'altro quasi in maniera improvvisa. Michele, provincia di Venezia, c'è Gianni Pier che ti propone una grande inchiesta, le grandi inchieste di Pierluigi Pardo, trovare 11 calciatori nazionali in Brasile senza tatuaggi, non ce la puoi fare neanche tu, credo. Bella, infatti è bella. Domani sera, fra l'altro, la parola inchiesta mi fa fare un'ulteriore marchetta, non è necessità, che avremo due inchieste esclusive dal Brasile, una sugli Indignados, sì, e quindi sulle manifestazioni, l'altra invece un pochino più prosaica su quello che sappiamo è una delle principali motivazioni di alcuni viaggi in Brasile, cioè il turismo sessuale. Abbiamo con i nostri inviati delle Iene abbiamo fatto le cose abbastanza parleremo di calcio, però ci saranno anche delle parentesi, diciamo così, più sociali. Non ridere, adesso è un grande tema, ma lo sappiamo tutti, è inutile nasconderci. Ma ci sono delle cose da approfondire, e noi le abbiamo approfondite. Io sono d'accordo con gli Indignados, ti dico, sono d'accordo non sull'utilizzare, che è una parola scorretta, ma sullo sfruttare la visibilità mondiale, il palcoscenico del mondiale, anche per magari ascoltare chi ha qualcosa da dire, con i dovuti modi, ma per ascoltare chi ha qualche cosa da dire. Guarda, su questo sono d'accordissimo, e sono anche un po' combattuto, no? Nel senso, io l'anno scorso ero in conferenza e chiaramente c'è stato un momento nel quale abbiamo avuto paura, ma non paura fisica nostra. Abbiamo avuto paura però che la competizione potesse terminare in anticipo, che insomma, il famoso 20 giugno, il giovedì, in cui sono stati gli assalti ai palazzi del potere, c'è stato il consiglio d'emergenza della FIFA che ha deciso di provare ad andare avanti nella competizione perché il clima era quello, insomma. Sì, sì, sì. Sì, sì. No, quello poi, sì, è chiaro che deve essere... E lì poi ti fai delle domande. E io onestamente sono molto combattuto, perché da un lato ovviamente da ragazzino non vedo l'ora che inizi il mondiale, non voglio che nessuno mi rovini la festa, ovviamente sono contro ogni forma di violenza, quindi... Però dall'altra penso pure che non ce la faccio a essere contro i manifestanti, perché nel Brasile ci sono così tanti problemi, così enormi, così tante differenze sociali fra le classi ricche e le classi povere, sì, che è difficile non indignarsi o comunque non dire no, trovo anche giusto ascoltarli, cioè non è che si può nascondere, certo, girarsi dall'altra parte e dire no, guarda, vogliamo vedere il calcio, cioè frega niente di niente, non me ne parlare, non voglio sapere niente, voglio solo vedere il pallone. Questo secondo me è un modo molto superficiale di vivere un fenomeno sociale come il mondiale, no? Questo cavalcavia della vergogna, che in realtà non è della vergogna, perché risponde a una normale esigenza di ordine pubblico, no? Questa risposta di 109 milioni di reali, quindi 37 milioni di euro per la costruzione di questo ponte che collega che consentirà praticamente l'accesso alla zona VIP del Maracanã dall'altra parte della strada. Chiaramente è una cosa fatta con degli obiettivi nobili, che sono quelli di ordine pubblico, perché non è che tu puoi far camminare Platini in mezzo o Blatter o il presidente degli Stati Uniti in mezzo a mille persone. Però è chiaro che questo è stato, per esempio, visto come un simbolo dello spreco di risorse a beneficio di pochi. Insomma, poi alla fine la battaglia del Coppa fra chi, la Coppa per chi, è proprio questa. Cioè, alla fine la sensazione è che alla popolazione brasiliana di questo investimento e di questa manifestazione entrerà in tasca poco o nulla, rimarrà il senso di una grande occasione persa. Rio de Janeiro, che è vero, ha ancora un grande evento del 2016, ma buona parte delle opere diarie che devono essere realizzate sono ancora carissimo amico, come dicevano a Roma. No, ma è chiaro. Beh, però guarda, ne parliamo dopo anche con Paolo da Brescia, Michele da provincia di Venezia, che ringrazio e prego di rimanere in linea. Io mi indigno forse ancora di più, ad esempio, del silenzio italiano. Esci da casa tua a Roma, vai a vedere le famose vele di Calatrava che dovevano essere il fiore all'occhiello dei mondiali di nuoto, vai a vedere come sono messe, però qui nessuno dice niente. Allora io dico, forse hanno ragione loro a farsi sentire con le buone, ma a farsi sentire davanti al mondo. 800240024, numero verde, Pier stai lì, Paolo, Michele, un attimo di pazienza, borsa, poi torniamo. Questo è l'ultimo giorno di lavoro intenso, poi faremo un lavoro molto particolare e quindi arriveremo sicuramente molto preparati. Applausi per lui, pubblicità per noi. Convocati. Ma speravo che veniva un po' di casino, un po' di, come si dice nel nostro mondo, un po' di pepe al culo, perché si vede che è la storia, è la nostra storia che insegna che quando c'è qualche piccolo problemino tiriamo sempre il meglio di noi stessi. Però è una squadra giovane con un allenatore molto preparato che ha cambiato negli ultimi 4 anni la mentalità del nostro calcio. Gattuso e il Pepe, lui sì che se ne intende, il concetto mi sembra chiarissimo. Vari ascoltatori di SMS più o meno molesti, caro Manu, tendo a chiarire che vorrei chiarire che a me il turismo sessuale fa molto più schifo che a lei, quindi questo che sia chiaro. Sergio, a proposito del discorso che stavamo facendo prima, è un argomento molto serio, lo sappiamo, però insomma bisogna anche capire come funziona. E Pardo domani lo mostrerà a Tiki Taka. Non io direttamente. Non tu direttamente. No, però insomma. Però sì, è chiaro che è un argomento serio, è chiaro che è qualcosa di schifoso, soprattutto quei viaggi in Thailandia. Dai, è una cosa che mi interessisce profondamente. Però è giusto scoprirlo, sapere, capire. Poi c'è la solita colata di demagogia che va dallo stipendio di Prandelli, 1.700.000 euro, che trovo perfettamente in linea con le regole del mercato calcistico, ai 300 euro a notte per 90 camere, chi se ne frega di quanto si spende nell'albergo degli italiani, della nazione italiana. Se andiamo a vederli tutti, no? Andiamo a vedere manager, politici, tutti quanti, a me sinceramente sono argomenti che appassionano zero. C'è chi scrive, Andrea, senza tatuaggi forse una squadra africana. Non credo proprio che in una squadra africana si trovi qualcuno che non è tatuato al giorno d'oggi. Paolo da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Tutto bene, ragazzi? Benissimo. Allora, innanzitutto ringrazio per la convocazione, molto bello. sono pienamente d'accordo con quello che hai detto sul discorso del turismo sessuale, non c'entra niente col calcio e fa ridere. Invidio tantissimo Pardo perché vedrà il mondiale in diretta e sono molto felice che tutti questi dubbi avvolgano un'altra volta la nazionale. Se andiamo a vedere, è forse una delle nazionali che ha ottenuto nel tempo costantemente i risultati migliori. Ce ne sono pochissime che hanno fatto questo, quindi ben vengano tutti i dubbi, tanto io sono sicuro di una cosa: gli 11 che mette in campo Brandelli faranno bene e daranno del filo da torcere a tutti. Provate ad andare a chiedere alla Germania quando vede la scritta soltanto Italia che cosa succede a livello fisiologico. Ma hai ragione Paolo, ma hai ragione, cioè, noi abbiamo paura. Ieri parlavamo di, ti ricordi Roque de la Cruz? No, non era, chi era? Era Ulises de la Cruz, il terzino dell'Ecuador che per alcune notti non ci ha fatto dormire. Dobbiamo aver paura di tutti per forza, ma è così che viviamo. Poi il resto sono riti propiziatori, ognuno ha i suoi, pessimismo, eccetera, eccetera. Ah, posso dire, Carlo, una cosa sulla missione sui 300 euro a notte dell'albergo? Sì. Io non ho amici in PCC, quindi proprio mi risulta che la missione della nostra Federcalcio sarà al 99,9% si chiuderà in attivo dal punto di vista economico, e quindi quella è l'unica cosa che conta, insomma. Poi se dormi in una, a parte che il resort spartano per costare quella cifra, quello che mi risulta è spartano. Pierluigi, però lo sai che è così tanto, a parte che come mi ricorda Piantanida, verranno usati i soldi della FIFA, non quelli della Federazione Italiana Gioco Calcio, per pagare le spese. Però tu sai qual è la demagogia imperante, no? Questi dovrebbero andare in convento, stare zitti, testa bassa, non rompere i coglioni, giocare gratis, allenare gratis e possibilmente fare il piacere di vincere, perché tu sai che è così, no? No, è vero, è vero, è vero. Ma guarda, questo è il esiste questa cosa bella o brutta che si chiama mercato, che ha tutta una serie di storture e di cose ingiuste, perché per dirti, le aziende fanno a gara a regalare prodotti, a dare soldi a mettersi certi vestiti, invece chi ha problemi veri e che avrebbe bisogno di quei vestiti, anche semplicemente dello sconto, le aziende le firmano. Però questo è il mercato. Ma è chiaro, Pierluigi, dai. È praticamente così. Io penso che se la federazione, e l'abbiamo letto, incasserà 2 milioni in fare, la previsione è che potrà... Scusa, è andata via la comunicazione, incasserà? No. 2 milioni? 2 milioni in più di quello che spenderà, quindi alla fine va benissimo così, insomma. Certo. L'unica considerazione che si può fare, ma ripeto, qui ricette non ce ne sono, l'ho chiesto l'altro giorno a Chiellini in conferenza, sulla scelta del luogo del ritiro. Ci sono delle nazionali che hanno scelto di mescolarsi un po' di più con la vita del paese, per esempio i giornali brasiliani, stamattina leggevo sul Globo, c'è stato questo, gli olandesi sono a Ipanema, credo allo Sheraton di Ipanema, e quindi praticamente tutti i giorni fanno un po' di palleggi sulla spiaggia, c'è grande entusiasmo, questo si può discutere. L'Italia ha scelto di andarsene in un luogo abbastanza appartato, non è l'unica nazionale che l'ha fatto. Sì, ma poi sai, ognuno, gli olandesi hanno anche alle Olimpiadi eccetera, hanno un rapporto diverso con l'ambiente che li circonda. Entrambe le concezioni vanno bene, entrambe sono rispettabili e di entrambe possiamo farci una ragione, insomma. Sì, sono d'accordo. Michele, buongiorno. Buongiorno, sono Michele della provincia di Vicenza. Sì. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Un saluto al mitico Pardo, anche da parte dei miei figli, che ogni sabato e domenica lo sentono commentare le partite della Wii. Quindi, le partite? Della Wii. Ah, certo. Il mitico Pardo. Tante reincarnazioni, sì. Un passo indietro. Io sono di natura pessimista, però mai come questa volta voglio essere ottimista, anche perché ho investito sulla vittoria della nazionale, perché ho comprato un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una famosa casa, una catena di supermercati, che se l'Italia vince me li regalano praticamente. Quindi spero vivamente che possano vincere questo mondiale. Sì. Al di là di questo, tecnicamente, secondo me, al di là di chi potrà mettere in campo Prandelli, dovremmo velocizzare un po' di più l'inizio della manovra, partendo da Buffon, passando per i centrali Barzagli, Bonucci, e poi passando a Chiellini, Pirlo, e cercare di tirare in porta e non cercare sempre di finalizzare il gioco, eccetera. Dobbiamo tirare in porta, secondo me, perché solo così riusciremo a trovare delle occasioni. Hai ragione, Michele. A proposito di quanto stavi dicendo prima, se non ricordo, allora, Mondiale 2006. se non ricordo male, qui in redazione c'era qualcuno che aveva fatto un affare di quel tipo e che poi non aveva pagato la televisione. E se non ricordo male, qui in redazione tra i miei colleghi, e se non ricordo male, sai Pardo chi era? Chi era? Cristina Balotelli, la sorella di Mario, che lavorava come ascoltatori sanno qui con noi. Adesso ho preso non questa. Sono arrivato, non sono arrivato quest'anno. Un giorno la chiamo, voglio chiedo. Cristina, hai pigliato un'altra TV? Senti, saluto Dario Ricci che è in Brasile a vedere l'allenamento della nazionale. Ciao Dario. Amico. Ciao ragazzi, amico Pardo, amico. Amico Ricci. Amico, ci manchi clamorosamente. Saresti il celebrante ideale per questo matrimonio dell'anno. Ti aspettiamo qua. E quando torni, Pardo? Giovedì. Venerdì. Venerdì mattina in Brasile, all'alba in Brasile. Dario, devi parlare con me perché sono io il suo agente. Viaggi non solo, quindi Mettiamo d'accordo, ma rimandacelo. Tutto perché... quello che riguarda Pardo, compresi i cellulari di cui Piantanina sta tenendo il conto, è affar mio. Tutto e quindi chiedi pure a me, sono suo procuratore. La verità è che siete rimasti sconvolti dai potenti mezzi media, se te lo diciamo, perché noi abbiamo nel ritiro di Mangaratiba, io non so come sia possibile, faccio gli applausi ai tecnici media, non so come sia possibile, abbiamo dei telefoni di stanno, cioè abbiamo dei numeri di telefono interni come se stessimo a Bologna. Quindi telefonate sono telefonate urbane, sia quelle fatte sia quelle ricevute, una roba straordinaria, straordinaria veramente. Abbiamo dei capoccioni veramente, io sono certo inadeguato. Prego Ricci, che succede adesso? Che stanno facendo? Guarda, giornata campale direi qua, perché gli azzurri stanno facendo stretching, sta per iniziare adesso l'allenamento, piove e quindi atmosfera ideale per preparare una sfida contro gli inglesi, sembra di stare proprio nella brughiera oggi qui a Mangaratiba, quindi Pardo non ti stai perdendo moltissimo perché conosci Mangaratiba col sole, quindi puoi immaginartela con la pioggia. Un dato interessante è che sono stati messi tutti dei teloni attorno alla parte del campo più vicino all'uscita del centro d'allenamento, perché evidentemente si vuole proprio precludere qualsiasi possibilità che spioni facciano delle soffiate, perché come sai la mattina c'è un'oretta di allenamento aperta alla stampa, ma il pomeriggio poi c'è l'allenamento chiuso alla stampa, quello vero e dove si lavora soprattutto. Sì, però Dario, tu è lì che devi infilarti, fai qualcosa, travestiti, mascherati. Come va lo spionaggio? Perché lo possiamo dire, tanto adesso la storia, ma è anche bello e giusto che sia così, la storia soprattutto dei colleghi di carta stampata, che sono quelli chiaramente più strettamente legati al fatto di beccare la formazione giusta. Noi andiamo in radio, in TV, su chiacchiere, grande amicizia, sono la gioia della bellezza, cerchiamo di dare le informazioni giuste, ci mancherebbe tutto. Però sai, carta canta, no? Quindi la cultura soprattutto nei quotidiani è quella di la formazione, e abbiamo dei colleghi anche delle primissime firme che insomma da sempre storicamente si ingegnano per cercare di vedere, ma questa volta paradossalmente sembrava più facile perché il campo era abbastanza aperto, il primo giorno si vedeva dalla statale, adesso hanno chiuso tutto e soprattutto c'è polizia ovunque, quindi tu puoi anche andare a spiare, a provare a spiare qualcosa secondo me arriva il poliziotto e ti fa scoop, ecco. Quindi confermo perché è assolutamente difficile spiare qualcosa, è già solo l'ingresso nei 30 metri, non hai visto, 50 metri che separano dalla svolta della strada al cancello, mi hanno chiesto 4 volte il nome e mi hanno fatto pure fare firmare digli, un foglio, digli, quindi, Pardo Pierluigi, digli Pardo Pierluigi, certo. Tenta di confonderli, usa disorientali. Siamo proprio, sembriamo due gemelli tipo Schwarzenegger De Vito, quindi siamo proprio uguali, insomma, dai. Allora ragazzi, ci fermiamo un attimo per il traffico, state lì tutti e due. Allora Pierluigi, dimmi se siamo noi dei demagoghi incredibili nel dire quello che abbiamo detto, o lo è Massimo che scrive: ma non esagerare, nessuno li vuole fraticelli, ma meno mani bucate, quello sì, oppure ma piantala, quella location è per le ferie, sì. Allora io invito chi scrive questi messaggi ad andare in ferie a gennaio in un club mediterraneo vicino a Crotone, cioè il clima è quello, Dario Ricci può confermare, cioè può essere un villaggio vacanze fuori stagione, quindi tanto per dare un'idea, non è che c'è Brasile, c'è la spiaggia, sono lì a prendere sole tutto il giorno, vabbè. 800 24 00 24, numero verde, traffico, poi di nuovo qui. Tutto molto bello. tutti convocati. Tutto pronto per la battuta. Insigne sul pallone. Tutto il Napoli nella tre quarti del Borussia. Parte Insigne, destro a giro. Alla rete! Si cocca la rete! Si cocca la rete! Si cocca la rete! Non è un sogno! Non è un sogno! Segna Insigne! Anche il Champions League! Segna Insigne! Il nostro Pepita! Il nostro Pepita d'oro! Quello sfuggita al tesoro di San Gennaro! Fa esplodere il San Paolo per questo gol capolavoro! È un gol capolavoro realizzato da Lorenzo Insigne contro i famelici tedeschi! Contro gli Sturmtruppen! Basta lui! 1,63 m per portare il Napoli sul 2-0 per far girare velocissimo la ruota della felicità! Luigi, te l'ho chiesto ieri, ma secondo te il mitico Raffaele Auriemma vuole gli scugnizi o no? Ma lo devi dire, me lo devi dire, seppellitaci qui, vogliamo morire qui, anche gli Sturmtruppen, non abbiamo paura di niente. Raffaele, ciao. Oh, come stai? Buongiorno, il mio migliore imitatore, Pierluigi Pardo, buongiorno anche a te. Zelig, se ce n'è uno, certo. Mi veniva meglio qualche giorno fa, eh? Sei un po' giù di voce. L'area del Brasile non ti ha fatto bene. Raffaele, ma tu chi vorresti in questa nazionale? Sai, clima elettorale, ballottaggi, Immobile, Insigne, Balotelli, chi vuoi? Ma guarda, la domanda che si fa, secondo me, lascia presupporre un desiderio che va oltre l'oggettività. Io invece dico, oggettivamente, in nazionale, non chi vorrei. Devono giocare Immobile e Insigne. Ah, oggettivamente. Cioè. Ma oggettivamente, perché scusate, io perché devo leggere, ma il posto è di Balotelli? Ma chi l'ha deciso che il posto è di Balotelli se oggi Insigne e Immobile sono i due attaccanti? Forma. Poi con questa logica del codice Cencelli non si va da nessuna parte e soprattutto non sarebbero mai esplosi ai mondiali Cabrini, Paolo Rossi, Schillaci. No, sì. Non è così. Quindi devono giocare gli Scugnizzi di Fratta Maggiore e Torre Annunziata, rispettivamente Insigne. Ma possono essere anche Scugnizzi di Varese o di Gallarate, non ce ne frega. Devono giocare quelli che sono più in forma. Sì. Pierluigi. Auriemmone, già in clima tiki-taka, già pronto per domani sera. Intanto mi sto per scontrare con un Alfa Romeo del 1984, grandissima, la macchina forse più vecchia di quella che avevo io fino a poco qua. Però ho imitato, bella. Raffaele Auriemma è nel partito della maggioranza, diciamo così, è il partito della maggioranza degli italiani. Sono tante cose che contano. Sicuramente la freschezza e diciamo questa sorta di luce divina che in questo momento hanno questi due giocatori, io penso che non sia un elemento da trascurare, perché appunto la storia è fatta di questo, no? Il momento conta moltissimo. Conta molto anche l'esperienza. Cioè, io credo che giocare, come direbbe Mochini, segnare 3 gol contro il Fluminense in un amichevole non sia come scendere in campo contro l'Inghilterra nella partita. Quindi questo è un altro elemento. Poi non è detto che Immobile e Insigne non siano pronti anche da questo punto di vista, cioè questo ci può stare. Però voglio dirti, gli elementi sono tanti. Giudicare soltanto per la freschezza del momento, secondo me, sarebbe sbagliato. Perché ci sono delle partite, e quelle del mondiale lo sono sicuramente, che sono speciali. Questo discorso l'ho fatto mille volte alla coppia, ve lo ricorderò sempre, perché mi è rimasto come insegnamento. Ci sono delle volte, delle partite, delle situazioni nelle quali c'è la sticella e nelle quali la qualità, la personalità, il talento, la classe pura di un giocatore è importante. Sì. Ci sono dei giocatori molto bravi finché giochi, con tutto il rispetto, contro il Verona, contro la Samp, contro il Genoa, e poi sono giocatori che invece li porti nella grandissima partita, nella grandissima occasione, possono faticare. Io non so se Immobile e Insigne siano in questa categoria. Raffaele, replica di Auriemmo un minuto. Replica di Auriemmo un minuto. Non concordo con il ragionamento, perché a parte il fatto che Immobile è il capocannoniere della Serie A, che è uno dei campionati più difficili perché le squadre avversarie puntano soprattutto sulla difesa, quindi già questo è un elemento sul quale poter avere una garanzia. Insigne, l'avete fatto ascoltare prima, è uno che nei momenti chiave è stato sempre uno di quelli che va a segnare contro il Borussia, sia al San Paolo che lì a Dortmund ha segnato. Poi in nazionale 2 presenze, 3 gol. un gol di questi l'ha segnato all'Argentina il 15 agosto. Cioè, ma quali altri elementi dobbiamo raccogliere per poter dare fiducia a Dirassi, come è successo in precedenza? Lo ripeto, con Cabrini, con Rossi, con Schillaci, con Cassano agli europei. Cioè, se fossero così, allora tutti quelli sono così, i ragazzi dovranno aspettare che diventano anziani, sì, per poter giocare in nazionale. Raffaele, io ti saluto con questo messaggio. Ha ragione Auriemma, Ciro è baciato dalle stelle. Grazie Raffaele Auriemma. Pier, ci sentiamo domani. A voi. Ci sentiamo. Ciao, domani. Scusate, io però devo fare una mozione d'ordine, perché non mi potete chiudere tutte le mozioni. Io voglio controbattere. Ho capito. Amore mio, mi staccano il microfono. Pure le doppiette in finale di Coppa Italia. Io non dico questo, dico che però la freschezza non è l'unico elemento. Ciao, bacio. Ciao Pierluigi. Devo andare con Bet Corner, naturale, subito GR, poi torniamo. Quote e pronostici. Questa notte alle 3 ore italiana torna in campo l'NBA con il terzo atto della finale tra Miami Heat e San Antonio Spurs. La serie è ferma solo 1-1 dopo il colpo degli Heat in gara 2 e sono queste le quote SNAI per la gara di stanotte all'American Airlines Arena. L'1, la vittoria di Miami, è quotata a 1,90, l'X è a 2,75, il 2 invece con la vittoria dei San Antonio Spurs di Belinelli è quotata a 4,50. Negli States, ma questa volta in New Jersey, a 1 di questa notte il Portogallo di Cristiano Ronaldo collauda gli ultimi schemi in vista del mondiale che parte giovedì con un amichevole contro l'Irlanda. L'1, la vittoria dei Lusitani, è quotata a 1,67, l'X è a 3,50, il 2 invece è quotato 5. Venendo ai mondiali, si può provare ad indovinare anche quello che sarà il percorso degli azzurri di Prandelli in Brasile. Il passaggio dei gironi dell'Italia è quotato 1,38, Italia fuori ai gironi quotata a 2,80. Il passaggio degli azzurri ai quarti è quotato 2,10, azzurri in semifinale quotati 4,50, Italia invece in finale è quotata 10. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Allora, torniamo con un ospite qui con me che è Giuseppe De Bellis, direttore del giornale, vice direttore del giornale, direttore di 11 nuove pubblicazioni, poi parleremo. Ciao Giuseppe, grazie. Ciao a tutti. C'è la mia amica Sara Tardelli. Ciao Sara. Ciao. Senti un po' chi c'è qua con noi. Marcello, come here. Io lo so chi c'è. Era Anita Edberg che chiamava Marcello Mastroianni, sì. Io invece ho chiamato uno ancora meglio, Marcello Lippi, buongiorno. Buongiorno Sara. Ciao Marcello. C'è anche, ciao, caro, c'è un sacco di gente qui ad accoglierti. Sì. Saluto tutti. Senti Marcello, finalmente sei un po' in vacanza? Sì, ho approfittato della sospensione del campionato cinese per i mondiali e sono venuto un po' a casa, sì, una ventina di giorni. È giusto. Senti, tra l'altro, ma Sara, tu sai che noi qua sono le 24 ore, stiamo attenti anche alle sorti della squadra cinese di Lippi, che sappiamo anch'io, vale più dell'Inter adesso. È stata, ha vinto tutto Marcello, anche il valore economico è elevatissimo. Sì, ma il calcio del futuro è lì, è in Cina? Il calcio del futuro, ci sono margini di grande miglioramento in Cina e dovunque c'è margine di miglioramento c'è futuro. Ci sono tanti soldi da investire, c'è tanta volontà e sono un pochino indietro, anche nella stessa Asia, a livello di nazionali per esempio sono nettamente dietro il Giappone, la Corea del Sud, eccetera eccetera. A livello di club invece c'è la possibilità, come è successo a noi, di ottenere degli ottimi risultati. Senti, quindi Sara, non so se hai mai sentito una conferenza di Marcello Lippi. No, mai, no. Guarda. Io sì, ho avuto una alla mia università. Sì, l'abbiamo sentita un po' tutti. Voglio dire una cosa. Lippi aveva tre cose che Prandelli non ha. Non so se è d'accordo, anche Giuseppe De Bellis. Beh, e soprattutto sentiamo. Marcello Lippi. Una difesa pazzesca. Alcuni giocatori fondamentali, ma qui ci sono ancora, ma con 8 anni in meno, e un carisma che ti inchiodava lì. Sono tre cose che mancano in questo momento a Prandelli. Nel primo mondiale, nel secondo? Sì, nel secondo. Non avevo non avevo nessuna delle tre cose nel secondo. Marcello, senti, Trapattoni, quando l'ho intervistato, mi ha detto che il CT della Nazionale è come un condannato a morte che non conosce la data della sua esecuzione. Prandelli oggi sul Corriere risponde a questa frase del Trap e dice: ha ragione lui. Ma è per quello che dopo la vittoria del 2006 hai lasciato la panchina della Nazionale? No, se l'avessi lasciato per quello non ci sarei ritornato. Ma ti hanno convinto però. No, io l'ho lasciata perché avevo deciso così, prima ancora di sapere come sarebbe finito il mondiale, e per coerenza poi dopo l'ho lasciata. Poi dopo 2 anni invece sono ritornato perché avevo lasciato un gruppo fantastico, e però ho fatto un errore grande. Prima non si torna mai in nazionale dopo aver vinto un mondiale. Io, questo è uno dei tanti errori che ho fatto nella mia carriera. Sì, posso essere d'accordo anche su questo con Marcello Lippi. Giuseppe De Bellis, vuoi chiedere qualcosa al CD campione del mondo? La risposta l'ha già data lui, perché gli avrei chiesto se tornerebbe una terza volta, mi sa che ha già risposto. Se mai andrà su qualche panchina. Perseverare è diabolico, sarebbe diabolico. No. Io in Italia oggi ho detto che non allenerò più, ma perché? Perché quello che dovevo fare l'ho già fatto. E comunque sia, volevo fare un'esperienza completamente diversa. E non nego che insomma anche l'aspetto economico abbia avuto la sua importanza, e dopo questa esperienza a livello di club sicuramente non andrò più, ma non solo in Italia, da nessuna parte. E poi magari se capiterà, siccome poi lo so che quando vengo a casa dopo 6 mesi mi rompo le scatole, non fa niente, magari una nazionale me la potrei anche riprendere, ma non un club. Sì. Questo sarà il mio ultimo club. Marcello, è quello che volevo chiedere, una nazionale in Asia? Una nazionale in Europa. Asia, o dovunque capiterà. Mi avevano chiesto di allenare la squadra cinese, ma volevano che allenassi contemporaneamente la nazionale e il club. E io gli ho detto che non era possibile, che non l'avrei fatto, che prima avrei finito il mio impegno con i club e poi dopo, se ci fosse ancora stata la possibilità, se ne poteva parlare. Invece loro avevano bisogno, hanno preso un allenatore francese, perciò una nazionale qualsiasi, anche europea, perché no? Senti, ma Marcello, tu sai che prima del mondiale è come se fossero elezioni, no? Clima elettorale, il tormentone, e tu hai avuto Totti e Del Piero. Ci sono stati Zola e Baggio e Del Piero, adesso Balotelli, Insigne, Immobile, eccetera. Questi tormentoni, sì, quanto danno fastidio e come si gestiscono? Niente, non danno nessun fastidio. No, sono oramai gli addetti ai lavori sanno perfettamente che, sì, che ci sono, sono sempre stati, sempre ci saranno. Se succede quello che è successo per esempio in questo momento, che nell'ultimo provino un giocatore fa 3 gol, è chiaro che per una settimana ci si butteranno dentro sopra tutti su questa possibilità. Oltretutto si tratta di un ottimo giocatore, ma quando si va a un mondiale si va con le convinzioni che sono nate, cresciute e evolute in 2 anni di lavoro, 2 o 3 anni di lavoro, e con queste convinzioni si va, ci sono poi dopo delle priorità, ci sono delle situazioni già provate, e a meno che non capiti un infortunio, che allora uno butta dentro qualcuno e magari diventa l'arma vincente. Senti Marcello, ma qual è il ricordo più bello che ti è rimasto addosso del 2006? Il bagno nel laghetto delle trote, glielo dico io, Marcello. Sì, il bagno nel laghetto delle trote, no, quello è lo scherzo che feci io a Quinta, che rimisi un pesce che è sventrato già, che avevo fatto comprare la mattina, un salmone era, e poi con la fiocina lo presi e lo tirai fuori e lui disse: che culo che c'ha il mister, un pesce così. Ed era lì dalla mattina alle 10 il pesce, da 5 ore, già pulito. No, a parte questi ricordi che sono la testimonianza di una serenità, di un ambiente sereno, allegro, che viveva questa grande avventura con grande serenità, appunto. Il ricordo più bello è la sintonia, la sinergia, l'alchimia che si era creata, questa magica, questa cosa magica che si era creata di questo gruppo che era una cosa unita, compatta, forte, e aveva una grande convinzione, una grande convinzione della propria forza. Senti, tu sei stato a Coverciano, no? Qualche giorno fa, dagli Azzurri. Ma sì, questa serenità l'hai sentita anche quando sei andato, sì, a trovarli? Sì, l'ho sentita e l'ho sempre percepita, per dire la verità. Io l'ho sempre anche detto, non è la prima volta che lo dico, ho sempre detto che questo gruppo, per unità di intenti, per voglia di essersi, di cooperare, mi dava le sensazioni che mi dà le sensazioni che mi dava il mio gruppo prima di Germania. Bene. C'è sempre sindrome di accerchiamento, come sai, Marcello. Noi non siamo capaci di vivere una vigilia in maniera serena, e questo è quasi un rito scaramantico. Però ma quello sì, deve essere difficile da gestire. Ma è l'ultimo dei problemi. No. Quando eravamo a Coverciano noi, era il periodo dello scandalo, dei calciopoli, che tutti dicevano, addirittura c'era chi proponeva: non si può andare in giro per il mondo e bisogna portare i giovani perché è una vergogna, chissà cosa succederà. Dici, noi siamo partiti, siamo arrivati in Germania, ci fosse stata una persona che ha detto, che ci ha toccato l'argomento una volta, mai. Certo. Mai. Era solo una cosa nostra, italiana, da sfruttare, da strumentalizzare. Cioè, in Germania nessuno ha mai parlato di questo. Certo, ma poi tu sai bene che una delle tue frasi ricorrenti: la nazionale deve essere un sogno di tutti, dai 9 ai 99 anni, come certi giochi in scatola. Però qui la gente è molto populista, e quindi chiedono una squadra di giovani, con una certa vena di razzismo anche di giovani italiani. Qualcuno spesso mi arriva a dire: e non può giocare in nazionale Balotelli? Pensa un po' a che punto siamo. Ma che al di là poi di è questo, italiano, ma chiaro, cioè, tra l'altro, è chiaro come il sole. Però io sono per chiamare, non mi interessa se giovani, anziani, 0-99 anni, sono o passaportati o no, se hanno i documenti in regola e sono eleggibili, io chiamo tutti, non mi importa l'età e non mi importa dove sono nati. Chiunque è in grado di portare un contributo. Bravissimo. Chiunque è in grado di portare un contributo alla causa. Senti, Sara, dobbiamo lasciare andare a pescare il CT, eh? Che peccato. C'ha da fare, buona vacanza. Marcello, grazie. Grazie, grazie. Un saluto caro a tutti. Ciao, ciao, Marcello. Grazie. Ciao, arrivederci. Ciao. Vedevo Giuseppe De Bellis che rideva moltissimo con la storia della fiocina e del salmone. Eh sì, perché. Non lo sapevi? No, non lo sapevo. E devo dire che io sono un grandissimo fan di quel mondiale. Credo che quel mondiale abbia un peso specifico nella storia di questo paese, maggiore di quello dell'82, sono uno dei pochi a pensarlo, e quindi tutti gli aneddoti su quel mondiale mi stanno a cuore. Questo non lo sapevo, mi ha fatto molto ridere. Avrei voluto chiedere a Marcello, ma mi sono dimenticato, che fine ha fatto il mozzicone di quel sigaro che ha fumato in campo dopo la vittoria con la Francia. Lo sai, Sara, tu? No, mi mancano, quello mi è sfuggito, di avere la curiosità della fine del sigaro. L'avrà preso qualcuno come Cimelio sicuro, guarda. Si sarà sbriciolato e ci avrà copiato l'ida mentre Gattuso lo prendeva per il collo. Anche questa è una, può essere una versione accreditata. Gli occhiali glieli ha rotti, quello sì. Quello ce lo ricordiamo. Ma no, diceva Giuseppe De Bellis che ha avuto un peso specifico il mondiale rispetto a quello dell'82. Io non so, quello dell'82, maggiore romanticismo, se vogliamo. Quello è anche una squadra più bella, più divertente. La nazionale italiana più bella che io ho mai visto, ma dal punto di vista qualitativo. Non lo so. Quella del 2006, quella del 2006 era più rabbia, cuore, difesa. Io ci vedo. L'emblema era Cannavaro. Da una parte era, non so, Paolo Rossi, scegline tu Conti, uno perché certo, il papà di sa, chi vuoi te? Ma nel mondiale del 2006 l'emblema era Cannavaro, che poi ha vinto il pallone d'oro. Sì, devo dire che però sul mondiale del 2006 secondo me c'è stata una lettura che è ancora un po' troppo fresca. Cioè l'82 l'abbiamo metabolizzato, l'abbiamo amato, l'abbiamo rivisto, l'abbiamo commentato, c'era tutta quell'alchimia e anche quella dose di retorica che poi funziona benissimo durante un mondiale, che nel 2006 ancora non c'è. Cioè è troppo recente, una vittoria che non abbiamo ancora digerito, paradossalmente. Invece secondo me quando saremo un po' più vecchi ameremo di più quel mondiale, perché ci siamo arrivati nelle stesse condizioni dell'82, cioè quasi disperate. E abbiamo tirato fuori il meglio di noi, no? Forse perché quello che c'era intorno nel calcio italiano in quel momento era qualcosa di nell'82 erano polemiche calcistiche, lì era un'altra storia. Sara Tardelli, facciamo outing. Chi ti ama? Sara, ti amo, mi scrive un ascoltatore. Ma sì, no, io non lo vedo, vedi, quelli carini non li vedo, sono perseguitata da Rosaria, sì. Che vabbè, ogni volta che parlo sostiene che io parli come Minoli, e questo mi sconvolge un po', perché io sono una donna, giuro, Rosaria. No, invece, senti, prima di salutarti, volevo che tu raccontassi un'altra, visto che stavamo parlando di romanticismo e queste robe qui, un'altra storia carina. Una storia carina legata a quella del ricordo del mondiale. No, allora ti ho raccontato che insomma tanti mi raccontano che bello il mondiale dell'82, mi fermano eccetera, però la cosa che a me fa più tenerezza è sapere i ricordi. Cioè, una signora un giorno che mi ha conosciuto mi ha detto: ma lo sai che io grazie al gol di tuo padre mi sono fidanzata con il più bello della scuola a cui correvo dietro da anni? Che abbiamo scommesso, se vinciamo mi dai un bacio, allora quando ha segnato papà, bacio. Allora facciamo così, fuori ricordi, convoco tutti gli ascoltatori perché voglio sentire i loro racconti. Esatto. Sul mondiale dell'82, ma anche su quello del 2006, certo. Giuseppe De Bellis, perché sono cose che, sai come scrive Federico Buffa, i mondiali segnano i momenti della nostra vita, ed è così, perché è così. Questo è il fenomeno più pop che esista. Sì. Saretta, ti ringrazio, bye bye, a prestissimo, ciao. Allora, parliamo un po' con gli ascoltatori. Come Giuseppe De Bellis. 11 che è? 11 è un trimestrale nuovo, è una follia che si è concretizzata. Un sogno che avevamo era quello di portare su carta un linguaggio nuovo, che poi in realtà nuovo non è, perché il linguaggio alto del calcio l'abbiamo inventato noi italiani. E poi per certe ragioni, per alcune ragioni che potremmo, come dire, sarebbero molto lunghe da approfondire, l'abbiamo un po' smarrito. Noi abbiamo detto: ma perché non lo ritiriamo fuori? E quale mezzo migliore del mezzo peggiore di tutti, cioè la carta, quello che tutti danno per morto, che in realtà invece ha un sapore che per noi è ancora unico. E quindi un trimestrale di calcio che racconta il calcio nella sua bellezza. L'idea è questa, fuori dalle polemiche, senza dimenticarle ovviamente, però raccontare quello che di bello c'è dentro e fuori dal mondo del calcio, perché c'è ancora tanto, tanto bello che non viene raccontato. Qui c'è quell'antinostalgia che io vedo anche nella rimonta del 2006. Perfetto. Cioè, secondo me abbiamo il diritto, noi contemporanei, di raccontare, di sentirci raccontare il mondo del calcio con la stessa epica con cui raccontiamo il calcio del passato. Sì, cerchiamo, assolutamente. Poi la carta, noi lo sappiamo, noi che facciamo questo mestiere tutti quanti, non ho mai incontrato nessun giornalista che non fosse innamorato di questa roba qua. Sì. Perché la carta è il mezzo più bello che c'è, quindi la carta è poi è chiaro, ci fanno un sacco di pippe internet e computer, e poi parliamo anche di Twitter, di ste robe qui, che io sono il più unsocial journalist che conosca comunque. Devo dire che i social hanno la loro importanza, e il web funziona per tante cose, però non c'è nulla come la carta, secondo me, che riesce a trasferire e a lasciare poi il segno del racconto, in questo caso dello sport, e poi potremmo anche parlare di altro, però in questo caso noi parliamo di sport, e secondo me la traccia scritta del racconto sportivo è una magia. È veramente una magia. Poi i giornali sono per me fondamentali, ci scrivo sopra, me li guardo, li strappo, li ritaglio. Che vuoi che ti dica? Con internet ne la faccio. La nazionale più bella è stata quella dell'Argentina, secondo Ruggero. La migliore Italia è stata quella del 90, secondo Renato da Pordenone. Secondo me è stata quella dell'82, secondo Giuseppe De Bellis quella del 2006. No, secondo me la più bella è quella del 90, poi c'è un legame personale con quella del 2006 per il successo, però devo dire che quella del 90 io ero ragazzino dodicenne, me la sono goduta proprio tanto, era una bellissima nazionale. Perché quella, essendo molto più giovane di me, quella dell'82 non te la ricordi bene? Me la ricordo, e c'è un aneddoto se vuoi. Dimmela. Mi ricordo quel mondiale, mi ricordo una cosa che è assolutamente personale, ricordo Italia-Camerun, e io ero un bambino che guardava la partita con papà, zii e amici del papà, e a un certo punto faceva le capriole sul divano. Mi ricordo perfettamente lo schiaffone preso perché disturbavo la visione di quella partita. Quindi per me quella partita, che non fu peraltro molto no, molto bella per l'Italia, sì. È stata anche la partita di uno schiaffone, poi tutto il resto invece sacrosanto, è sacrosanto. E quindi da allora poi ho visto le partite in religioso silenzio e casualmente sono state le migliori. Guarda, ognuno ha il suo, ti ricordo. Ognuno ha la sua Polaroid in tasca, io ne sono sicuro. Moreno da Padova anche, Mario da Milano pure. Moreno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e grazie a voi intanto. A lei, mi dica. Volevo, non sento, secondo me c'è troppo poco entusiasmo da parte di noi da casa. Porca vacca, secondo me andiamo là e vinciamo. Io credo che dobbiamo, io credo che sia molto importante anche, anche per chi comunque va a giocarsi, per questi giocatori, sentire un po' più di entusiasmo. Bravo. Da parte degli italiani, perché partiamo sempre con l'idea di, magari nel 2006 era così, per me che sono interista, cioè, la vedo sempre, anche i miei colleghi interisti la vedo sempre come non ce la facciamo, non si può, sì, fare, sì. E anche per la nazionale, ma stiamo facendo opinione, stiamo, io, allora io dichiaro ufficialmente che fondo il partito dell'ottimismo, perché sarà un grande mondiale per l'Italia soprattutto. Poi, lo vince, poi secondo me lo vince la Germania, ma non perché il mio pronostico è questo, però l'Italia farà un grande mondiale e io sono stufo dello sfigo pessimismo cosmico che ci accompagna ogni spedizione, di questo essere cupi e tristi, avere paura di qualunque cosa, ma anche nella scelta, cioè anche nelle convocazioni. Siamo l'unico paese che continua oggi a guardare indietro i 10 giorni, sì. Avremmo dovuto portare, avremmo dovuto, basta, dove... Pepito non c'è, basta, ma sì, ci prendiamo, ma gli altri, sono, ma guarda la maglia, quante, conta le stelle, quante sono? 4. Tante. Sono 4, il Brasile non te ne ha, che è il Brasile, mamma mia, il Brasile è la luna, dobbiamo giocare col Brasile, siamo lì con la testa sotto il cuscino, oh, ne hanno uno più di noi e la differenza la fanno i rigori di Pasarina, quindi un nulla. Mario da Milano, poi ci fermiamo per la borsa e poi vorrei tornare in Brasile da Dario Ricci per sapere come va l'allenamento d'Italia. Mario. Buongiorno a tutti, grazie di avermi richiamato, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo confutare l'idea che noi andiamo sempre molto remissivi ai mondiali, perché ci fu un mondiale, su quello in Germania del 74 mi sembra, che andammo, sì, dopo aver battuto Inghilterra, Brasile. Un grande novembre per noi fu quello, e poi andammo con sicuri di vincere, invece prendemmo degli schiaffoni tremendi, tornammo con la coda, sì, in mezzo alle gambe. Secondo me il miglior mondiale comunque fu quello dell'Argentina, dove prendemmo dei gol da, praticamente dalla difesa, con, sì, dei pallini della difesa, e forse non eravamo preparati a quelle velocità dei palloni. C'era state dette un sacco di cose, che Zoff era cieco, che non ci vedeva più, che un sacco di, non so se ti, no, non puoi ricordarti che eri molto piccolo. Ero appena nato. Io no. Però mi sono documentato. Io e Mario ci ricordiamo i gol di Brands, di Anna contro l'Olanda, di Nelinho con il Brasile, tutti a dire: ah, abbiamo un portiere cieco. Quattro anni dopo ha vinto il mondiale. Facendo la parata, delle parate col, sì, Brasile. La parata su quella palla fermata sulla linea. Mario, grazie, ci sentiamo dopo. Anche oggi al migliore in campo, maglietta di tutti i convocati, eh? Maglietta edizione Brasil di tutti i convocati. Tutti convocati. Giuseppe De Bellis, vice direttore del giornale, direttore di 11 trimestrale, vero? Trimestrale, sì. Facciamo diventare mensile? Vediamo, speriamo. L'obiettivo è quello, no? L'obiettivo potrebbe essere quello, l'obiettivo è far vivere questo prodotto sui due mezzi, sulla carta, come ti dicevo, uh-huh, prima, però io sono anche digitale, a, sì, differenza, certo, tua, certo. E quindi, ma com'è, comunque, giusto che sia? Perché 11 si deve muovere così, nasce da un'esperienza analoga a quella bellissima di Rivista Studio, che è una rivista culturale, che è, diciamo, la mamma di 11, ed è declinata così, carta e web, perché sono due mondi che possono tranquillamente convivere, devono convivere. Come hai sentito, siamo molto autoreferenziali, noi abbiamo messo lo spot del programma all'interno del programma, così chi ascoltasse solo la borsa non può non sapere che ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è tutti convocati. Io vorrei fare anche un Istanbul, si dice così, con i messaggi che arrivano ogni volta che tocco l'argomento ricordi, perché ci sono delle cose. Ero a Torino a sentire gli Stones, sono veramente poetici, si sente che vengono da dentro, eh? Ero a Torino a sentire gli Stones, Mick con la nostra bandiera è stato un buon profeta come sempre, Andrea da Udine. Avevo 10 anni e sul gol di Tardelli mio zio scattò in piedi sulla sedia e si risedette immediatamente. Un brutto strappo muscolare. E poi una lunga carovana con una mitica 127, Mauro da Torino. Le estati 82-2006 sono legate a due grandi amori. Quando l'Italia vince, scoppiano gli amori. Boom demografico. Assolutamente, sempre. Sappiamo, sempre no? Sì, beh, certo. Non c'è nessun metodo migliore che quello di vedere una grande partita di calcio. Bravo, Franco, mi ricorda una delle mie frasi preferite. Hernán Crespo, che cos'è il gol? Che cos'è? Non so. Una droga. Ah, Dario, voglio tornare in Brasile. Dario Ricci. Eccoci da Mangaratiba, Carlo. Ti sei mascherato? Hai messo la maschera, gli occhiali scuri. Io voglio che tu entri. Voglio che tu entri nell'area proibita. Provaci in qualche modo. È il giorno giusto, Carlo, perché sicuramente la maschera è quella da palombaro, perché sì. Qua piove, neanche fossimo in Scozia, sì. Quindi sicuramente io vedrò anche l'allenamento segreto, perché rimango sicuramente impantanato con la macchina nel parcheggio fangoso. Bravo. Del Portobello Resort. Quindi, a prescindere da questo vostro desiderio, che io avrei comunque esaudito in ogni modo, il meteo ci è venuto incontro e quindi io sicuramente sarò qua almeno altre 2 ore e quindi alla fine sarò anch'io ricoperto dalla vegetazione e potrò spiare i segreti. Per quello che invece ho visto, devo dire, scena simpatica, anche surreale, la chiacchierata fitta tra Ciro Immobile e Mario Balotelli, grandi risate da parte di Ciro, oggi è un po' antipatico dirlo perché poi Mario si sposa, però sembra, lo sai quando ti piace la stessa ragazza col tuo migliore amico, per cui c'è il momento in cui ti dici ma sì dai, è meglio che speriamo che vada con te, eccetera eccetera, poi chiaramente tu speri di fregargliela. In questo caso entrambi corteggiano la maglia titolare. Sì. Il prossimo capitolo sarà magari una conferenza stampa in cui loro diranno ma sì, possiamo convivere, possiamo giocare. Ma no, ma loro lo diranno sempre. Brandelli darà un colpo al cerchio alla botte, sì, magari insieme qualche volta, non allargate. Cioè, ma oggi per quello che hai visto c'è stato qualcosa da segnalare? E soprattutto da segnalare il lavoro. Io ti prego di potresti fare un'inchiesta per me? Perché io divento pazzo, certo. Sto rimbambendo Piantanita con questo mio dubbio. Sta seduto vicino a me, io gli faccio una testa così. Ma ascolta, lì fa un caldo pazzesco, giusto? Beh, giusto. È molto umido più che altro. Sì, vabbè, comunque, caldo, comunque sì, sì. Certamente non fa freddo, si sta no, insomma, no. Tra il caldo e il molto caldo. Mi spieghi perché Prandelli è sempre vestito come se fosse gennaio? Con la tuta, con le maniche lunghe, la felpa, con le maniche... Mi spieghi perché, glielo puoi chiedere, adesso glielo proverò a chiedere. Io sono vorrà dimagrire. Tu dici vorrà dimagrire. Cioè, li vedi lì un'umidità che sembra oggi Milano qua fuori si crepa, e questo sempre con la felpona rossa con le maniche lunghe. Ho un messaggio subliminale che noi non capiamo. Devo dirti che all'interno poi dell'ambiente tipo sala stampa e così c'è un'aria condizionata da far paura. La metti su dopo la felpa. Il felpone lo metti su dopo, no? Hai toccato un nervo scoperto di questa spedizione. Indagherò. Grazie Dario, ci sentiamo dopo. Mi raccomando, tu stai dentro. Grazie. Lì non, tu sì. di che ti mando io, che ti manda Pardo. Di che ti manda Pardo? Io metto il nome di Pardo. Poi tra l'altro un'ultima notazione a proposito di presenti, assenti, mascherati: non c'era Verratti perché già fuori gioco dalla partita amichevole col Fluminense per la febbre. Oggi non era certo il giorno migliore per ritornare in campo. Sì, il problema della febbre ce l'ha avuto Barzagli, ce l'ha Verratti, non so se sia una conseguenza l'effetto laterale delle vaccinazioni, può essere qualcosa di... anche se mi sembra che non l'abbiamo fatto, però comunque è un malanno. Forse l'umidità, cioè, davvero, forse il clima incide. Forse ha ragione Prandelli a vestirsi, come se fosse in Svezia a novembre. Dario, ci sentiamo dopo, grazie. Valerio, provincia di Bergamo, Enrico da Roma. Valerio, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Io chiamavo per il capitolo ricordi, sono molto legato al mondiale del 2006 perché purtroppo nella partita d'esordio dell'Italia ho perso il mio caro papà, col quale avevo l'abitudine di vedere tutte le partite della nazionale, quindi immaginate un po' voi come ho seguito il resto del mondiale, ogni partita dell'Italia è stato per me in quel periodo mi commuovo ancora adesso, diciamo. Ma posso crederci sul serio, è stato un modo di distrarmi, di staccarmi un attimo da quello che è stato il lutto, e poi diciamo completo la cosa quando si chiude, ho questo affetto particolare col mondiale perché io e mia moglie abbiamo la certezza della data del concepimento di mia figlia il 9 luglio 2006. Ah, e vabbè. Quindi ogni volta che intravedo qualcosa su Sky oppure sento riparlare, o anche in questi giorni che seguo la vostra trasmissione. Questo è bellissimo, ma ognuno di noi ha dei bellissimi ricordi da darci, non magari così profondi, perché questi sono veramente clamorosi, però ognuno di noi è legato a qualcosa, no? A un episodio, ripeto, ho baciato il televisore in ginocchio al gol di Altobelli in finale, tutti gli amici lo ricordano ancora. E quindi è per questo che io ho fondato il Partito dell'Amore, credo che abbia il copyright. Sì. Quello dell'ottimismo invece lo fondiamo. Io voglio godermi questo mondiale col sorriso, voglio essere felice tutte le volte che gioca l'Italia, non preoccupato, incazzato, prima che giochino. Poi vediamo, però io ho profondi invidia per brasiliani, olandesi, tedeschi, cioè vanno tutti lì. Oh, testa alta, giochiamo poi per dicono, vincere. Dicono usciamo agli ottavi. Usciamo agli ottavi. Tanto agli ottavi una forte la becchi, poi se non trovi agli ottavi la becchi i quarti, alla fine. Io non ho mai capito perché siamo noi ad aver paura di... Come si chiamava quello là? Me lo ripeti? Per favore. Cruz. Santa Cruz, no. Adesso me lo faccio tatuare. Ulises de la Cruz dell'Ecuador. Noi giochiamo contro l'Ecuador e ci facciamo una testa così perché siamo preoccupati di Ulises de la Cruz. Ma pensa a te, roba da matti. Adesso dobbiamo ancora scoprire chi è il mattatore della Costa Rica. Di chi possiamo temere in maniera colossale della Costa Rica. Enrico, buongiorno. Ciao. Partito dell'amore anch'io. Partito dell'amore. Vinciamo le elezioni. Giovane coppia di sposini scannati, partiamo vacanza, Calabria, proviamo a fare un bambino. Grazie Italia-Argentina, grazie Italia-Brasile, grazie Italia-Polonia, puoi immaginare, l'eccitazione del massimo. Torniamo, finale, test di gravidanza positivo, problema. Io ho due gemelli di 31 anni. Nel senso che eravamo partiti scannati senza una lira, ma la speranza era di fare un bambino. Il Padre Eterno e l'Italia ce l'hanno mandati due, che ora sono due signori grandi, e quindi insomma il Partito dell'Amore, vorrei una tessera grande all'onore. Allora grazie Enrico da Roma. Allora Giuseppe De Bellis, tu che sei importante, tu che sei uno che conta, facciamo sto libro sul Partito dell'Amore. L'abbiamo già scritto. Il partito però non dell'amore, dell'ottimismo. Dai. Partito dell'Amore mi piaceva, però mi sembra che sia stato usato. C'è una signora, una signorina, insomma, non sì, mi ricordo. Mi sembra signora che non possiamo, copyright è suo, non possiamo rubarglielo. Borsa, poi torniamo e per la tua felicità parliamo dei Twitter Barottelli, ne spara uno al minuto. De Rossi ne può fregare di meno. Dicono che leggendo i Twitter di Prandelli si intuisca un certo pessimismo, invece. Questo non so perché ce lo facciamo spiegare. Tutti convocati. A proposito di social network, Piantanida ha appena twittato la foto di Mick Jagger che l'11 luglio 82 canta con la maglietta numero 20 di Paolo Rossi addosso, a proposito di ricordi. Mi segnalano anche un uomo da temere, tale Joel Campbell, punta del classe 92. Proprio lui! Devo aver paura di Joel Campbell, giocatore della Costa Rica, punta del classe 92, ha fatto ben addirittura 8 gol con l'Olympiacos quest'anno, adesso è in prestito all'Arsenal. Ho già la pelle d'oca. Sì. Senti, dicevamo di tweet e di queste cose qui. L'agenzia Blogmeter ha fatto uno studio sull'impatto, su come impattano i tweet che escono. Sappiamo che i Twitter sono liberi dal ritiro degli azzurri, liberi social network, su come impattano in questo momento qui da noi. Su cosa si può leggere tra le righe di quei 150 caratteri. Enrica Burchi dell'agenzia Blogmeter. Ciao, piacere, sono Ciao. Eugenia. Eugenia, vedi che mi ho scritto tutto sbagliato, non ne faccio una giusta. Non sono uno da tecnologia, non sono uno da Twitter. No, non me la prendo mai, insomma. Io sono, l'ho detto prima, unsocial in maniera assoluta. Ma invece cosa esce da questa indagine? Da questa indagine emerge che in realtà i giocatori un po' ti seguono, perché anche molti di loro sono a social, in sì, realtà. Grandi. Sì, abbiamo fatto un'analisi sui 23 convocati e sul coach Prandelli. In realtà di questi ben 9 non hanno nessun profilo social, né Facebook, né Twitter, né Instagram. Quindi non hanno un profilo ufficiale per dialogare con le loro community. E gli altri invece, in realtà, diciamo, la cosa forse più interessante che ci ha sorpreso di più è che preferiscono Twitter a Facebook. Sì. Infatti sono 15 quelli che hanno un profilo Twitter e lo usano abbastanza spesso, e invece Facebook è un po' meno usato. Balotelli è tornato su Twitter, sì. Su Facebook invece. Sentiamo. Sì, esatto. Sì, faccio sì, sentire sì, una, sentiamo, una, sentiamo questa. Guys, I'm back after 2 years on Facebook and... The name is Mario Balotelli Official, so you should follow me. Capito? Con questo messaggio è tornato su Facebook il Balo, Giuseppe. Un messaggio imperdibile. Imperdibile, veramente, da, anche in questo caso da brividi. C'è chi invece è un po' più come me, Capello. The rules is normal rules, I don't like the people tweet, only this, normal. Hai capito? No, io capisco normal che lui, no, io capisco like che lui sia un nemico di Twitter. Secondo me però Twitter ha un grande vantaggio, che è quello di abbattere le barriere tra il protagonista e il suo pubblico. Verissimo, questo è verissimo. E soprattutto, adesso lo diciamo e dovremmo darci le martellate alla Tafazzi perché un po' è colpa nostra, però il fatto che ormai le conferenze stampa o gli appuntamenti con la stampa tradizionale mainstream, come diciamo, siano diventati noiosi, aumenta il percepito da parte del pubblico dell'importanza dei tweet. Verissimo. Cioè i tweet diventano la verità, mentre le conferenze stampa diventano una verità troppo mediata e quindi diventano anche più noiosi. Verissimo. Eugenia, che ne pensi? Ma penso che effettivamente c'è un fondo di verità, perché alla fine si ha l'impressione, no, che Facebook e Twitter siano dei mezzi immediati in cui le persone ma anche le celebrity possono esprimersi direttamente senza passare per voi giornalisti, senza passare per l'incontro. È chiaro poi che per un commento approfondito il vostro lavoro è fondamentale, ma il tweet o la foto su Instagram danno un senso di immediatezza che magari alle community piace di più. Sì, ma poi soprattutto parlare con i giocatori è comunque un'impresa molto difficile, mentre ormai è vero che è così, mentre ormai questi sono tutto il giorno attaccati al computer, al telefono, quindi è facile raggiungere il loro pensiero, raramente interessante, spesso banale, però almeno lì parlano. Cioè, quindi, Eugenia, Balotelli che spara un tweet a raffica, c'è chi se ne frega come De Rossi, Immobile minimo sindacale, mi sembra che abbia fatto 4 tweet, di quei 3 retweet, eccetera. Ranocchia che twitta le fotografie dei Twin Butter, giusto? Scrivendo così non ti puoi mai sentire solo. Ma mi spieghi com'è questa storia per cui si riesce a capire l'umore di come sta uno da un tweet? Ma allora, quello in realtà è legato anche e soprattutto a quello che scrivono gli utenti comuni, perché mentre diciamo la grandezza della community dipende da quanti fan, da quanti follower hanno, da quanti seguaci riescono a mobilitare, invece l'umore viene calcolato soprattutto su quello che le persone comuni scrivono di loro, quindi quelli che scrivono, so, il grande Balotelli piuttosto che Buffon, una delusione. Ed è quello che si cerca un po' di capire prendendo il termometro di quello che è la percezione di questi personaggi. Chiaramente al momento stanno tutti vivendo di un momento di grande popolarità, anche solo perché sono andati ai mondiali. Qualcuno molto criticato era Prandelli, perché chiaramente è stato molto molto criticato per le convocazioni, sì. Ma si sa che gli italiani sono un popolo di allenatori. Sì, di allenatori, e sono un popolo di gente molto arrabbiata, soprattutto quando si parla di calcio, esatto. Di calcio e di polemica, mondiali. Un po' di polemica. Mamma mia. Sì. Eugenia, grazie, magari ci sentiamo nel corso dei mondiali per fare il punto, A lavori in corso. Grazie Eugenia Burti. Grazie mille, grazie a voi, a presto. Io invece, cosa fai? Già il migliore in campo, di già? Io volevo parlare del Bari con Giuseppe De Bellis, che vale di più della nazionale, diciamolo. Bravo. Dopo il migliore in campo di oggi e poi mi dici del Bari. Michele, buongiorno. Buongiorno, sono Michele della provincia di Vicenza. Sì. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Un saluto al mitico Pardo, anche da parte dei miei figli, che ogni sabato e domenica lo sentono commentare le partite della Wii. Quindi, le partite? Della Wii. Ah, certo. Tante reincarnazioni, sì. Un passo indietro. Io sono di natura pessimista, però manco questa volta voglio essere ottimista, anche perché ho investito sulla vittoria della nazionale, perché ho comprato un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una famosa casa, una catena di supermercati, che se l'Italia vince me li regalano praticamente, quindi spero vivamente che possano vincere questo mondiale. E dunque, senti, dammi un pronostico secco sul Bari, te la senti Giuseppe De Bellis? No, perché un vero tifoso non dà pronostici. Non dà pronostici, no, soffre in silenzio, ecco, bravo. Latina, il tifoso, Bari. Il tifoso soffre anche quando vince, il che per un tifoso del Bari è una rarità, cioè lo è sempre stato, quest'anno un po' meno, però è una rarità, però comunque si soffre, secondo me il bello di essere tifosi è questo. Beh, mica male, eh? Allora, dovrai tornarmi a trovare però. Volentieri. Durante i mondiali ti aspetto. Volentieri. Va bene, così. Grazie mille. Di 11 di... Ti ho chiesto, prima di chiudere, ti ho chiesto chi vuoi, Balotelli, Immobile, insieme chi vuoi. Io, per me vanno bene tutti, io credo che insieme. Sì, no, ma io credo che una delle cose più assurde è fare la squadra della nazionale prima che si cominci il mondiale. Vediamo, d'altronde abbiamo visto nella storia dei nostri mondiali, è una tentazione, però comunque devo dire, se me lo chiedi, allora Balotelli, comunque. Anch'io. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti, regia, Claudia Schiattoni, redazione. Sentiamo domani dopo il GR delle 2. Ciao.